12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Come vi avevo anticipato la scorsa settimana, rimaniamo in tema moda e nella puntata di oggi andiamo alla scoperta della professione del personal shopper. Cercheremo di scoprire come poter intraprendere questa carriera insieme alla nostra ospite Anna Turcato, professionista di questo settore. La professione del personal shopper sta diventando una professione sempre più ambita, in particolare fra i giovani, e proprio per questo esistono scuole che cercano di formare dei veri e propri professionisti del settore. Si tratta di una professione non ancora molto diffusa in Italia, ma che si sta espandendo soprattutto nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Bologna, e richiesta anche da grandi catene alberghiere e strutture turistiche. Per svolgere questa professione, tra le competenze che bisogna possedere ci sono sicuramente un'ottima conoscenza della città in cui ci si muove e in particolare conoscere alla perfezione boutique, outlet, ma anche mercatini, showroom, locale trendy e ristoranti per rispondere alle diverse esigenze dei clienti. Una buona cultura, ottima conoscenza di una o più lingue straniere, in quanto la clientela è per la maggior parte appunto straniera. Bisogna essere automunito per accompagnare i clienti in giro e avere delle buone doti comunicative. Il vero personal shopper quindi è un professionista. Conosce tutte le ultime tendenze della moda, sa dove comprare a prezzi competitivi, è informato perché legge tutte le riviste di moda e conosce le collezioni di tutti gli stilisti. Insomma, non è una professione in cui ci si possa improvvisare. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora proviamo a capire meglio cosa vuol dire essere un personal shopper e diamo il benvenuto alla nostra ospite Anna Turcato, professionista del settore. Ciao Anna, benvenuta a 12 minuti. Buongiorno a tutti, grazie a voi per avermi invitata. Anna, ci racconti chi sei e di cosa ti occupi esattamente e quindi cosa vuol dire essere un personal shopper? Sì, io ho un percorso un po' anomalo, nel senso che mi sono laureata in scienze della comunicazione, ho fatto un master come curante nel settore moda e poi per quasi 10 anni ho lavorato in importanti aziende del settore fashion, sia nazionali che internazionali, come buyer. Quindi sempre comprato per gli altri, ma da un altro punto di vista. Poi, diciamo, a un certo punto i 30 che arrivano e che per la donna costringono un po' a scelte forzate, un brutto incidente stradale, che sono quelle cose che ti fanno un po' riflettere, no, sul tuo presente, su quello che vuoi fare, mi ha aiutato a fare il salto, è scattato un click e appunto ho aperto questa mia nuova attività ormai da più di un anno, di appunto personal shopper, consulente d'immagine e culanter a Venezia. Ecco Anna, cioè adesso, no, proprio che parli appunto di personal shopper, cioè in che cosa consiste esattamente questa professione? Allora, non è da confondere assolutamente qui a Venezia con la guida turistica, è una professione molto composita, che si lega sì all'accompagnamento delle persone, nel mio caso possono essere autoctoni o turisti, per quello ne parlo, perché ovviamente in questa città per me è fondamentale anche la loro presenza, non è l'accompagnamento delle persone a negozi, perché insomma quello si può anche fare, ma c'è uno studio dietro. C'è uno studio sia di analisi della persona, non puoi fare questo lavoro se non ti piace la gente, perché appunto devi essere anche un po' psicologo, devi capire cosa vogliono, anche come indirizzare appunto i loro acquisti, e poi c'è tutta la parte della consulenza d'immagine, nel senso che accompagna una persona o per un giro, magari perché vuole rifarsi tutto il guardaroba, perché si guarda il suo armadio la mattina e non sa mai cosa mettersi, e quindi io poi faccio anche l'organizzazione del guardaroba, che spesso è la prima parte di questo lavoro, perché non puoi comprare qualcosa di nuovo se non sai cosa ha già la persona, oltre ovviamente alla sua fisicità, al suo modo di essere e alla sua vita, le famose occasioni d'uso di cui si parla tanto in TV. Certo. E poi

Allora, mi fai una bella domanda proprio sulle competenze, perché spesso questo lavoro e anche tutti i lavori correlati, tipo la fashion blogger, io sono anche fashion blogger, ma una cosa in più, si pensa non si debbano avere competenze per farli. Molto spesso c'è la ragazza molto giovane che magari si sa anche vestire bene, oppure conosce anche le tendenze del momento, cioè quelle che vede sui giornali, che però pensa appunto di poter fare questa professione tranquillamente. Secondo me la cosa fondamentale è studiare e avere esperienza. Io appunto, come dicevo, ho fatto la buyer per 10 anni e la culanter, che vuol dire che non è che io so quello che c'è sui giornali adesso, io so quello che ci sarà sui giornali fra 2 anni. Quando io quindi prendo... giochi in anticipo. È fondamentale conoscere le tendenze, conoscere il mondo della moda, perché è facile portare una persona, però bisogna anche sapere che cosa le andrà bene, non solo adesso, ma anche fra 2 anni, se vuoi fare una buona riorganizzazione del guardaroba, per esempio. E poi c'è anche la componente appunto dello studio del fisico, dello studio dei colori, che è fondamentale per appunto valorizzare un incarnato, valorizzare un corpo, una forma, insomma i punti forti, i punti deboli. Non è un lavoro che si può fare improvvisando. Io ci arrivo dopo una buona esperienza e imparo ogni giorno e mi informo ogni giorno, sia sul mondo della moda composito che appunto sullo studio proprio della persona fisica, dei colori, eccetera. E poi un'altra caratteristica che si deve avere, si deve essere un po' psicologi. Ok, è certo, perché avendo a che fare con le persone, ovviamente, insomma, questa è una cosa che di sicuro aiuta. Anna, ma quindi se dovessi dare dei consigli a un giovane che volesse intraprendere questa carriera, che cosa gli diresti? Senza dubbio provarci. Il vostro programma appunto si riferisce al lavoro in questo periodo. È una cosa che fa paura mettersi in proprio, ha fatto paura anche a me, visto che venivo anche dal mondo dell'azienda e che quindi c'è il famoso tempo indeterminato, almeno la paga sicura a fine mese, che adesso, se posso essere sincera, mi manca. Quindi una persona ha sicuramente paura. Però secondo me puntare su se stessi può essere anche una soluzione proprio, sempre però valorizzando al massimo la professionalità. Tu non puoi fare un lavoro improvvisandoti, anche quando poi ti arrivi magari ad aver sotto, non puoi arrivare a delegare se non sai il processo dall'inizio alla fine. Quindi secondo me bisogna mettere da parte molta sicumera, essere sempre umili e cercare di essere professionali anche nelle cose piccolissime, anche nella piccola mail che si manda, adesso siamo nel mondo del social media, quindi al tweet, alla pagina di Facebook, come si sistema, bisogna appunto essere precisi e professionali in tutto. Si fa così, secondo me dopo un po' la gente se ne rende conto. Anna, quindi... certo. Anna, ascolta, io ti ringrazio davvero per essere stata qui con noi, per tutti i consigli che ci hai dato, e ovviamente ti faccio l'in bocca al lupo per il tuo lavoro. Devo farmi pubblicità, però posso dire il mio sito? Assolutamente. www.atpersonalshopper.it. Grazie. Anna, grazie a te. Grazie, ciao. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi avesse intenzione di intraprendere questa carriera, vi segnalo il corso professionale di Image Consulting organizzato dall'Accademia del Lusso di Treviso. Si tratta di un corso che ha l'obiettivo di formare un professionista che si occupa di migliorare l'aspetto dei clienti attraverso la cura dell'immagine. Per info potete consultare il sito dell'Accademia www.accademiadellusso.com. Vi segnalo anche Polimoda International Institute of Fashion Design and Marketing, che è un centro di alta formazione per il settore moda riconosciuto a livello internazionale, che ha sede a Firenze. Per informazioni potete consultare il sito www.polimoda.com. Up to Date Fashion Academy è un'accademia di alta qualificazione di Milano che attiva corsi con l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti per l'esercizio di attività di elevata appunto qualificazione in ambiti specifici di moda o cosmesi. Tra questo vi segnalo il corso di Fashion Personal Shopper, e per info potete scrivere a info@fashionuptodate.com o visitare il sito www.fashionuptodate.com. www.fashionuptodate.com. Corso di personal shopper anche a Verona e Padova con CSP Resourcing, azienda che propone corsi di formazione nel settore della moda, della comunicazione, del design, della grafica e della progettazione industriale. Per informazioni potete visitare il sito www.cspresourcing.it. E per oggi è tutto, piccola anticipazione sulla prossima puntata che sarà dedicata alla professione dello scenografo. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.